Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Beh, Bo Marzi, hai collegato tutto? Sì, sì, tutto funzionante. Sicuro? Esatto. Siamo già in onda, secondo te? Siamo già in onda. Siamo già in onda. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo. Siamo pronti per dare il via alla quinta stagione del nostro Soundcheck. Sentite, ecco, dei suoni in sottofondo, perché proprio quest'anno faremo soundcheck nel vero senso della parola, e proprio per questo motivo soundcheck è la prova del suono, e proprio per questo motivo quest'anno io ho coinvolto un ingegnere del suono, perché mi servirà. Per quale motivo mi servirà l'ingegnere del suono? Sì, perché per tutta l'estate abbiamo lavorato qui nel Groove Master Studio facendo prove e anche registrazioni discografiche, e allora ci siamo detti: ma perché non teniamo tutto montato in modo che quando poi ci stanno le puntate per la radio, per Radio 24, mettiamo in onda proprio i musicisti che suonano dal vivo. E l'idea mi è piaciuta, e l'idea è piaciuta anche al mio collaboratore più fedele, che è Riccardo Bo Marzi, ingegnere del suono, che quindi ho coinvolto in questa stagione. Ti toccherà fare radio. Buonasera Riccardo Bo Marzi. Buonasera a tutti. Possiamo raccontare agli amici di Radio 24 in contatto esattamente che cosa abbiamo fatto durante l'estate, tu e io? Abbiamo preparato lo studio, il Groove Master Studio, per fare la diretta live suonando dal vivo. Suonando dal vivo. Naturalmente, per fare questo abbiamo bisogno di cosa? Di strumenti. Strumenti. E gli strumenti ci sono e sono buoni. Ci sono. E ci sono. Soprattutto abbiamo bisogno di... microfoni. Sì, certo, ma poi abbiamo bisogno di... computer. No, ma poi abbiamo bisogno di... ingegneri del suono? Ho capito, Bo Marzi. Lo stai facendo apposta o no? Cioè, stai già facendo il simpatico in radio. Abbiamo bisogno dei musicisti. Oh, dei musicisti. Allora, io vorrei ringraziare i miei musicisti, perché visto che domani abbiamo un concerto, abbiamo approfittato, abbiamo fatto utile e dilettevole. E nel senso che facciamo contemporaneamente anche la radio, dopo aver fatto già una giornata intera di prove, perché questa è una cosa che i musicisti devono fare, Bo Marzi, e provare, esatto. No? Sì, sì. Non bisogna dare mai nulla per scontato. Mai nulla per scontato. Esatto. Sai che ripeti bene tutto quello che dico, Bo Marzi. Esatto. È forte, mi piace questo rapporto. Iniziamo bene. Allora, madame e messie, vado a introdurvi gli ospiti di questa puntata. Sono contento perché sono i miei fratelli ormai da diversi anni. C'è anche qualcuno che da più di 25 anni segue le mie avventure, e ve lo presenterò. Voglio ringraziare quindi per la partecipazione a questa prima puntata di questo nuovo corso del Soundcheck di Radio 24, il maestro Sebi Burgio al pianoforte. Grazie Gegè, buonasera a tutti. Grazie, come va? Tutto bene, siamo pronti. Sei pronto? Mi fai sentire il pianoforte? Sì. Ieri ho chiamato Thomas, il mio accordatore. L'ha reso impeccabile. Impeccabile. Come fammi sentire, stiamo parlando comunque di un pianoforte verticale che suona bene e col quale abbiamo registrato diversi dischi. Fammi sentire come va. Sebi, io direi che come pianoforte verticale non è male. Assolutamente. Tra l'altro avrei notato che le band indie pop in questo periodo portano i pianoforti verticali sul palco, è molto sul utilizzato palco, come strumento. È rigorosamente in mono. In mono, cioè mono non viene microfono. Bo Marzi, lei come lo ha microfonato? Esattamente in mono. Vedi? Ah, in mono. Non la sapevo questa cosa, ma siamo in linea. Quindi un colpo di fortuna. Sì, è stato un colpo di fortuna. Bene, Sebi Burgio è posizionato lì dietro al pianoforte, e adesso alle contrabbasse, tra l'altro un contrabbasso dannata, vado a introdurvi uno dei miei migliori amici e anche il... come dire, lo sciamano della band, fratello Joseph Bassi. Buonasera e pace e swing, fratello. Pace e swing a tutti. Eccolo. A tutti quanti. A tutti quanti, grazie. Siamo contenti. Come va lo strumento? Ogni volta che suono questo strumento vorrei portarmelo a casa. Il key bass? Eh? Il key bass, il tuo key possiamo, bass. Possiamo raccontare, sì, sì, agli amici di che strumento stiamo parlando? Di un contrabbassone costruito a Chicago nel 1937. Eh sì, è uno strumento meraviglioso, direi, uno strumento che fu costruito per i contrabbassisti di jazz che all'epoca, come anche oggi, non avevano tanti soldini per comprarsi strumenti pregiati, e allora la K-Bass costruiva strumenti ideali per il jazz. Quindi non è uno strumento di liuteria, ma è uno strumento leggero da un punto di vista proprio sulla lavorazione, della lavorazione. Esatto, In quell'epoca c'erano i K-Bass e gli American Standard, proprio quando il jazz e come nasceva. Suona? Divinamente. Beh, allora, sì. L'hai accordato? Sì, accordato, vi faccio sentire una nota. Faccio sentire anche due note, tanto poi lo dovrei suonare, visto che siamo qui. Sì, perché stiamo per dare il via. Bomarzi, come va? Perfetto. Il segnale buono? Ottimo. Come lo abbiamo ripreso? Non con una... Questo è un trucco che non vorrei svelare. Comunque, con un microfono dinamico. Un microfono dinamico, perfetto. Quindi non un condensatore, non come un si condensatore. Fa di solito. Un microfono dinamico. Bene, vado a presentarvi alla batteria un maestro di batteria e percussioni della nuova generazione che coniuga swing e bebop. No, puoi anche salutarmi da lì, Dario, tanto poi verrai al mio... Dario Panza, fai sentire la tua voce. Salve. Salve Dario, come va? Tutto bene. Ti vedo bene in canottiera, tipico da batterista, poi fa caldo qui oggi. Ovvio. Beh, certo, tutte le macchine accese da questa mattina. E Madame Messier, per chiudere il cerchio, uno dei miei musicisti preferiti, da una famiglia di meravigliosi artisti e strumentisti, il formidabile Alfonso De Ida, che è mio fratello. Buonasera, ciao. A tutti. Ecco, ti puoi avvicinare al microfono, Alfonso? Sì, ecco, ancora così. Di più così. Come va? Come stai? Tutto bene, grazie. Ecco, tu come stai? Che hai portato? Il contralto oggi? Io ho portato il contralto, sì. Vabbè, poi parleremo di tutte le tue qualità come musicista. Sì. Che ti considerano un superdotato del jazz italiano, questo... anche per altri motivi, ma non ne voglio si parlare dice, adesso. Non lo so, Si dice, ma non lo sai. Allora, io direi di dare il via. Facciamo un po' di musica, tanto per fare un sound check, diciamo 2-3 minuti. Proviamo Thing and the Thing, dai, per vedere se tutto funziona. Bomarzi, ci siamo? Sì, siamo pronti. Via. Stacco io il tempo. 1, 2, 3, sacamore. Ecco. Questo è il sound check di Radio 24. Diamo il via, vediamo se funziona tutto. Divertitevi ragazzi, potete groovare. Me lo dai qui? Va bene. Ci siamo. Andiamo col groove ragazzi, andiamo. Facciamoci un applauso, no? Io direi di farci un applauso ragazzi. Non lo voglio fare. Ma è troppo bella questa cosa, quindi intanto i colleghi che ci stanno ascoltando sono avvisati. Qui, in questo studio, in questo programma radio, si fa musica, quindi è giusto Bomarzi? È giusto, esatto. D'altra parte se vuoi fare radio e fai il musicista devi venire qui, no? E certo, poi il bello è avere la possibilità di suonare dal vivo e non suonare i dischi che comunque... Sì, però anche i dischi noi li suoniamo. E suoniamo certo. Delle cose fantastiche. Voi conoscete una band che si chiama Banda Magda? Si intitola Muchacha, un brano ripreso dal repertorio di Luis Alberto Spinetta, che è scomparso qualche anno fa, uno fra i compositori argentini che ha segnato il nuovo corso della musica argentina. Bene, Muchacha, Banda Magda, al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Di JJ Telesco. Jamila Hoods al soundcheck di Radio 24, brano intitolato Holy, naturalmente, perché avrete capito e si sente proprio dalle prime note che Jamila Hoods è una ragazza casa e chiesa, già collaboratrice di Chance the Rapper, quel meraviglioso musicista, cantante, artista, autore che si è aggiudicato diversi Grammy Award quest'anno e che ha anche partecipato alla produzione di questo EP di questa ragazza residente a Chicago e quindi ha questo tipo di formazione che viene dal gospel, formazione che viene dalla chiesa. Che ne pensi, fratello Joseph Bassi, tu che da contrabbassista jazz hai frequentato la chiesa e per un certo periodo, diciamo quando avevi 13-14 anni, hai tentato anche quel tipo di percorso mistico e spirituale, no? Certo. Diciamo che la mia esperienza, diciamo da uomo di chiesa, si completa da anche... Da uomo di chiesa? Da uomo di chiesa, perché ho fatto il chierichetto da bambino e sono stato molto molto frequentatore della chiesa. Della chiesa. tanto sei stato, hai frequentato talmente tanto la chiesa, non solo la domenica, ma tutti i giorni ci andavi. Certo, quanti anni avevi? 13, 14? 13 anni, 13, 14 anni. Che cosa successe poi una notte che hai avuto una visione? No, una chiamata. Una chiamata. Una chiamata. Che è diverso. Una chiamata, sì. Certo. È una chiamata che mi ha portato a desiderare di fare un certo tipo di vita. Un certo di vita, non proprio una vita ecclesiastica, ma una vita monastica. Oh. Monastica, perché ammiravo l'idea di poter vivere sulle montagne, nei conventi, e insieme quindi? Ai cani, i gatti, gli animali. Ma già suonavi il contrabbasso? Ovviamente sì, suonavo il contrabbasso. Sì. E quindi che hai fatto? Hai lasciato il percorso di studi, quello tradizionale? Non esattamente, perché portai con me il contrabbasso. Dove? Il contrabbasso, San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo. Ma lì dai frati Cappuccini, dai Cappuccini, proprio lì dove, diciamo, la residenza di Padre Pio. Esatto, esatto. Volevo da grande diventare un monaco. Un monaco. Un monaco contrabbassista. Esatto. Ma perché stato le due fantastico. Cose non vanno poi così d'accordo, no? All'epoca, diciamo, quando ero bambino, non proprio, non c'era così apertura come nei tempi attuali, per esempio, nei confronti della musica. Ma io riuscii a portarmi il contrabbasso e a praticare il mio strumento. Ecco, allora tu, scusami, voglio arrivare al punto, no? Questa Jamila Hoods, casa e chiesa, canta come bisogna cantare, no? È una vera cantante. Perché invece dalla nostra chiesa non vengono fuori i cantanti? Perché purtroppo credo che la musica non sia considerata un valore fondamentale nella nostra chiesa, sebbene poi nei Vangeli se ne parli anche tantissimo, no, nella Bibbia, chiedo scusa. La musica deve essere un valore spirituale importante con cui comunicare pace. Io più volte ho parlato dei valori della musica, certo, anche per il progetto al quale anche tu stai partecipando, certo, Sounds for Children, no? Il quale vogliamo educare i bambini ai valori della musica, quindi la musica, certo, non è soltanto intrattenimento. Purtroppo nella nostra chiesa non è molto gradevole la musica, per cui specialmente noi musicisti che viviamo di musica soffriamo, si soffre molto quando si ascolta la musica durante la funzione, spesso chitarre scordate o voci scordate o anche canzoni improbabili, molto molto vecchie. Invece nella tradizione evangelica americana la musica ha assolto un ruolo fondamentale. C'è gente che si è convertita grazie alla musica, c'è gente che è diventata cristiana grazie alla musica. E poi andare a vedere una cerimonia nella chiesa battista o quella evangelica è una festa, uno spettacolo vero e proprio. Quando ci sono le band gospel, lì è puro divertimento. Il miracolo del gospel, il miracolo degli esseri umani tutti insieme che fanno musica, è un miracolo che bisogna contemplare nell'esperienza carismatica. Quindi iniziamo a mettere le band nelle chiese. Secondo me sì, secondo me. Bisogna anche scrivere musica adeguata, perché le canzoni che vengono suonate nella nostra chiesa... Grande musica, basterebbe pensare soltanto all'adorazione di Nostro Signore... E far scrivere musica a grandi musicisti, grandissimi musicisti, e poi eseguirla da grandi musicisti e cantanti soprattutto. Va bene, questo è il soundcheck di Radio 24, fratello Joseph Bassi, nostro ospite, così come Dario Panza alla batteria, Alfonso De Ida al contralto e flauto, quando ce lo farà vedere il suo flautino, e Sebi Burgio al pianoforte. Abbiamo ascoltato Jamila Hoods, direi invece, visto che siete qui, di suonare ancora qualcosa dal vivo. Dovendo partire, anche per i ragazzi lo voglio dire, un musicista che vuole avere un primo approccio con la musica, su che cosa si deve concentrare secondo te, fratello? Come stile, come genere? La prima esperienza che io ho fatto e che consiglio a tutti quanti è il blues, ovviamente. È un blues. Allora, vogliamo fare un blues? Sì. Facciamo un blues. Allora, Sebi, stacca una cosa, in che tonalità lo vuoi fare, Alfonso? Si bemolle, che ti piace? B flat, F. È uguale. Basta che suonate nella stessa tonalità, ragazzi. Questo è importante, però. Va bene, parti tu, Sebi. Dai, fai una cosa, un blues qualsiasi, vai. Soundcheck, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Beh, direi che non è male, ragazzi. Guardate che fare la radio suonando dal vivo mi piace da impazzire, e questo sarà il nuovo corso per il soundcheck di Radio 24. Adesso io vorrei continuare però il discorso con fratello Joseph Bassi. Fratello, ci dovrebbe essere la cuffia per te quando vieni in questa postazione. Eccola qui. Su questa cosa della formazione dei cantanti che negli Stati Uniti, frequentando la Chiesa Battista Evangelica, soprattutto i musicisti che poi arrivano al soul, all'R&B, all'hip hop contemporaneo, trovano nel gospel, diciamo, una base di partenza molto forte. Beh, direi che trovano nella spiritualità il significato e il motivo per cui cantano. E, diciamo che la mia esperienza ecclesiastica si è completata con l'esperienza ovviamente di musicista, ormai sono 30 anni che faccio questa carriera, e nella mia vita ho accompagnato innumerevoli cantanti. Conosco perfettamente il loro lato B, più che la loro faccia. Che significa il loro lato B? Io vivo sempre alle spalle delle cantanti. È un pericolo per loro. È un grande è vero, perché il contrabbassista di solito è posizionato fra il pianoforte e la batteria, diciamo in seconda linea. Esattamente. Non sei front stage, quindi proprio avanti a te c'è la cantante. Ecco perché conosci tutti i lati B delle cantanti. Questo tipo di esperienza. Poi ti farò stilare una classifica, naturalmente. Per forza, io ho le mie pagine segrete. Beh, diciamo che hai accompagnato il fior fiore dei vocalist di jazz, ma anche diversi cantanti pop. Beh, sono stato per anni assistente a Spoleto in un corso di alta specializzazione jazzistica dedicata al solo, 15 anni circa, con Michelle Hendrix, che è la figlia di John Hendrix, che ha imparato perfettamente la lezione del padre. E poi diciamo che di base nella mia vita io ho sempre cantato, prima ancora che suonato il contrabbasso. E quindi... Va bene, quindi tu sai quanto è difficile cantare, e poi per un musicista, un cantante di jazz, quanto è difficile improvvisare. Tanto è vero che io non canto perché mi vergogno della mia voce e non possiedo la tecnica, ma l'improvvisazione nella musica jazz, che è la musica che io amo di più, è una cosa che io letteralmente quasi non concepisco all'interno della vocalità. Se non viene effettuata ad altissimi livelli, quindi il cantante che espone benissimo la melodia e canta benissimo, quando vuole improvvisare, poi deve cantare ugualmente in grandissima, deve avere una grandissima qualità espositiva. Perché lo possiamo dire, perché è difficile improvvisare, fare il famoso scat, no? Sì, labbando parole senza senso, perché... Perché? Perché ci vogliono delle grandissime competenze di natura armonica, anche se non teorica, perché bisogna distinguere la teoria dall'armonia, puramente. Dizzy Gillespie non conosceva una nota, ma non Chet sapeva Baker anche. Neanche. Ma erano grandi solisti, conoscevano l'armonia perfettamente, molto meglio di grandi didatti, per esempio. Ecco, nel mondo della vocalità purtroppo devo constatare che da 30 anni a questa parte, specialmente nel nostro paese, ma anche un po' in tutto il mondo, i cantanti di jazz si sono pubblicizzati in maniera molto negativa. Va bene, fortunatamente però adesso i dipartimenti di jazz nei conservatori stanno formando i cantanti da musicisti. Credo che posso esprimere qualche piccola critica anche sotto questo punto. Sì, la puoi esprimere di velocemente perché stiamo per andare alle notizie, ma vorrei far ascoltare ancora Jamila Hussi. Diciamo che secondo me i cantanti devono soltanto cantare. Devono cantare. A meno che non si tratti di, appunto, George Benson, Clark Terry. In Italia abbiamo... Permettimi anche di dire una cosa, no? Anche i contrabbassisti però, quando fanno gli assoli... Tanto per essere chiaro, io faccio il cantante e te mi stai parlando male della mia categoria, che improvvisano molti senza sapere quello che fanno, ma anche i contrabbassisti molto spesso non sanno neanche che note prendono quando fanno gli assoli. Certamente, ma per soprattutto questo... una cosa forte è che poi ci sono i peggiori, sono quelli che cantano gli assoli e le note che cantano non corrispondono a quelle, esatto, che suonano. Esatto. Quella è la cosa terribile. Però la cosa bella è che ci, vabbè, siamo incontrati in questa vita. Ci siamo incontrati e infatti io e te ci vogliamo bene. E suoniamo insieme perché ci rispettiamo e io credo, bene, che tu sia uno dei più grandi solisti in tutto il mondo. E anch'io penso che tu sia uno dei più grandi contrabbassisti del mondo. Abbracciami, dai. Va bene, vi lascio con Jamila Hoods, il brano si intitola LSD e qui c'è proprio lui, c'è Chance the Rapper. Poi facciamo una pausa, arriva l'informazione e poi torniamo con la seconda parte del Soundcheck, prima puntata di questa quinta edizione, ovvero appuntamento numero 420, 420 puntate prodotte per il Soundcheck qui su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24, dopo l'informazione, sempre con Gegé Telesforo. Oggi il primo appuntamento di questa quinta stagione del Soundcheck e oggi ho la fortuna di ospitare qui nel Groovemaster Studio tutti i musicisti che ormai seguono le mie vicende e da anni, e ce n'è uno in particolare con il quale facciamo musica ma anche tanti viaggi, tanti chilometri, tante persone incontrate insieme, tante cene, tante belle mangiate, tutto quello che si può fare quando si vive insieme per quasi 25 anni, praticamente una specie di matrimonio, ma potremmo anche dire che siamo diventati parenti. E questo signore non ha un nome ma un titolo e si intitola Alfonso De Idda. Eccomi qua. Buonasera. Allora, Alfonso De Idda, potrei dire tante cose sul tuo talento e la tua musicalità, mi limiterò a dire che invece arrivi da una famiglia di musicisti strepitosi, perché ti sei formato, sei stato forgiato proprio sulle gambe di tua madre, che suonava il pianoforte, suona ancora, suona più tanto il pianoforte. Non suona più tanto, onestamente. Lei me l'ha detto, io ho parlato con tua madre. Perché lei si vergogna un po'. No, mi ha detto tua madre che lei suona il pianoforte, poi però ha sposato tuo padre, che è stato un eccellente pianista di jazz, ma non solo di jazz, e poi il pianoforte era sempre impegnato, perché quando papà comprò il pianoforte nuovo, dice, quando non c'era lui al pianoforte, c'erano tutti e tre i miei figli. Alfonso, Dario, eccellente bassista, al quale ho anche prodotto il disco nuovo, poi ne parlerò nelle prossime puntate, e Sandro, che è il maggiore. Quindi, insomma, veramente una famiglia che si è nutrita di musica. Perché non avete fatto altro nella vita? Cioè, perché non hai scelto tu, che sei un ragazzo intelligente, di fare il notaio, per esempio? Ma guarda che ci ho anche, non voglio dire provato, però quasi, studiato giurisprudenza per un annetto. Ah. Però, cioè, non sapevo questa cosa. Io invece ho tentato una carriera da commercialista fallendo e ancora oggi non so che tipo di lavoro è. Perché purtroppo il richiamo della musica era talmente forte. E come metteva la testa su un libro era tempo perso. Mi ha detto tuo fratello Dario che in qualche modo... tuo fratello, cioè, sai di chi stiamo parlando? Certo, il miglior bassista del mondo. Vabbè, io non dovrei dirlo. No, lo dico io, il miglior bassista elettrico al mondo. E anche da filo da torcere anche a parecchi contrabbassisti. Lo dico perché c'è fratello Joseph Bassi, certo, lì che sta chattando con la moglie. Tuo fratello mi ha detto, ho sempre invidiato ad Alfonso la facilità con la quale imparava a suonare gli strumenti. Gli strumenti, quindi... qual è l'arte di un polistrumentista? Cioè, come si fa? Non lo so, ma in realtà guarda che anche Dario lo è. Cioè, anche Dario ha una grande Ma non facilità. È di Dario che io voglio parlare, certo, è di te che voglio parlare. No, però per dire, non saprei spiegare come nasce questa cosa. Certo, noi avevamo tanti strumenti a casa, per cui passare da uno all'altro era abbastanza semplice, avendoli proprio fisicamente, il pianoforte e la batteria. Tra l'altro io ho cominciato come batterista, e anche Dario, anche se è una cosa che forse non sapete, sia io che Dario abbiamo cominciato come cantanti. Ah! Avevamo un duo Canoro. Meno male che non hanno fatto i cantanti. Infatti saremmo rientrati in quella famosa categoria di cui parlava prima il fratello Joseph Basti. Eravamo un duo Canoro e in effetti, accompagnati da Sandro al pianoforte, cantavamo delle canzoni. Partecipavamo a dei concorsi per bambini ed eravamo, insomma, dicevano, anche abbastanza bravi, intonati, tutto quanto. Beh, senz'altro. Poi però il richiamo degli strumenti è stato più forte. Tu insegni al conservatorio. Io insegno al conservatorio di Udine. Io insegno improvvisazione, E improvvisazione e poi diciamo sassofono e faccio dei corsi. Senti, ma come insegnante di improvvisazione, tanto sì, per riagganciarci al discorso del cantante, oddio, che fa il vocalist e quindi improvvisa con la voce che faceva prima Joseph, sì, Bassi, tu durante le tue lezioni ti ritrovi cantanti in, certo, aula o no? Certo, come no. Però devo dire che io, diciamo, la prima cosa che cerco di spiegare è che ognuno deve fare, deve suonare, cantare, di conseguenza, quello che sa. Mm. Quindi è inutile buttarsi a fare cose che non si sanno fare. Mm. Questo sembrerà una cosa abbastanza ovvia, però alla fine non lo è. E poi, fondamentalmente, anche io ritengo che il cantante faccia la migliore improvvisazione possibile facendo benissimo il tema, cantando benissimo il tema. Poi certo ci sono quelli che riescono anche ad andare oltre, quindi fare anche qualcosa tema, sì, in più. Allora, considerando, sì, che comunque la regina resta sempre la Fitzgerald, è la Fitzgerald, proprio per la precisione. Che la regina della parola, sì. Va bene, allora ti voglio far ascoltare e voglio farvi ascoltare, ragazzi, una brava cantante della nuova generazione, album di debutto pubblicato poco meno di un anno fa. Lei si chiama Christy Dashiell, l'album è Time All Mine, Save Me, e questo è un brano che ricorda un po' le atmosfere create dal producer Jay Dilla e anche il lavoro che da anni svolge Robert Glasper, quindi un brano suonato acusticamente come abbiamo fatto noi, ma con quel piglio di groove e visione gospel ipnotica che non deve mancare nella musica di oggi. È Christy Dashiell al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eccoci dal Groove Master Studio con fratello Joseph Bassi, Sebi Burgio, Dario Panza e mio fratello Alfonso De Ida e l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, che mi farà compagnia credo per tutta la stagione o perlomeno quando ci sarà bisogno di lui, visto che abbiamo attrezzato il Groove Master Studio per dare la possibilità ai nostri colleghi, ai nostri amici musicisti di proporre dal vivo qui su Radio 24 il loro suono, le loro composizioni, la loro arte. A volte si dice, mio caro Alfonso, prendi l'arte e mettila da parte, una cosa che si dice in Italia, perché negli Stati Uniti invece l'arte è ancora considerata, cioè il musicista è considerato un personaggio di spicco della società, così come gli attori e quelli che si dedicano all'arte per contribuire allo sviluppo della società da un punto di vista culturale. Invece da noi si dice prendi l'arte e mettila da parte. Difficile da spiegare questa cosa, anche perché l'Italia poi invece padre di santi e navigatori. Che non c'entra niente, lo so, però no, ma hai ragione, è proprio così, è che a volte ci dimentichiamo quello che è stato fatto e che dovremmo preservare, e tra l'altro ancora oggi in Italia c'è eccellenza vera e propria, certo, nella musica, nell'arte, nella cultura, nel designing, nel cinema, in tutto, nel cinema, lo diciamo sempre, sì, sì. Però abbiamo i nostri dei problemi. Fatto sta che noi facciamo i musicisti e quindi da musicisti a volte tocca anche arrangiarsi, no? Perché certo, non è che possiamo suonare e fare i concerti tutti i giorni. Adesso ho notato che esistono nel nostro paese quasi più insegnanti di musica che musicisti veri e propri. Come mai? Che diavolo di domanda mi starei chiedendo. È una domanda un po' così. Ma intanto perché forse l'interesse è aumentato. Nei confronti della musica e nei confronti del jazz, nel senso che tante persone vogliono imparare, non si sa il perché poi alla fine il riscontro nel pubblico è, per quello che riguarda discografia e cose varie, è sempre diciamo minore, quindi non si sa. Beh, intanto siamo diventati tanti, no? Certo, tanti e anche tanti bravi, e l'Italia invece è quella, è piccola, l'Italia è ristretta invece, certo, anzi si certo. Sotto un punto di vista lavorativo, insomma, abbiamo le nostre problematiche, sì, sì, sì, da affrontare. Però l'Italia continua a sfornare dei grandissimi talenti, anche perché nei conservatori adesso c'è, ma anche nelle scuole di musica, sono arrivati i musicisti, sono arrivati, certo, dei grandi professionisti. Cioè, già il fatto di tu insegni a Udine, per me un giovane musicista che ha Alfonso De Ida come insegnante, così come i bassisti, i contrabbassisti hanno tuo fratello Dario, certo, al al Conservatorio di Salerno, ma poi potrei citare, che ne so, da Roberto Gatto a Maria Pia De Vito, tutti Danilo Rea, certo, Danilo Rea, musicisti che insegnano, Fabio Zeppetella e così via. Li saluto tutti e saluto anche tutti gli altri. Certo. E quindi si formano con musicisti veri e propri. Diciamo, prima diceva Joseph che un giovane musicista si deve formare comunque con il linguaggio del blues, e dal linguaggio del blues poi dove si passa? Allora, il blues, diciamo che la prima grande struttura codificata in 12 misure dal 1917, con la prima incisione proprio del blues, e successivamente c'è stata un'altra grande struttura utilizzata come, diciamo, come il termine giusto adesso non mi viene, palestra per i giovani musicisti che iniziavano ad improvvisare, che è il rhythm change. Rhythm change che deriva da una canzone del 1931, se non vado errato, che è stata scritta da George Gershwin, che si intitola I Got Rhythm, esattamente, che aveva una struttura che poi è stata codificata come rhythm change. Che poi la struttura originale di I Got Rhythm è anomala, no? Anomala perché ha delle extra bars sul finale del chorus. Quindi, come rhythm change, poi è stato dato un nome a questa struttura che è l'Anatol, giusto? No, che è ABA come forma. Questo è un termine forma più europeo, sai, Anatol. Ah, sì? Credo che in America non lo conoscano come Anatol. Ed è una struttura ABA. Quindi se il blues è di 12 battute, chiusa, sì, e l'Anatol invece ne ha 32, quindi diviso ABA, dove la B si riconosce perché è completamente diversa da un punto di vista armonico a orecchio. E quindi credo che tutti noi ci siamo formati anche improvvisando. E tra l'altro sono avvederato anche tu, scusami, hai però composto un tra l'altro per tuo fratello. Ah, io ho scritto Heiruki, Heiruki pensando a tuo fratello, perché il tema era abbastanza articolato, e quindi quando poi facevamo i concerti anche tu, era divertente fare il tema in unisono con il basso elettrico di tuo fratello Dario. Però vabbè, a me poi non è proprio un rhythm change, perché nella B la progressione è armonica diversa, è un po' diversa, però l'ispirazione è quella. Che facciamo? Lo vogliamo fare? Suoniamola e facciamo una cosa veloce, perché poi voglio farvi sentire Terrace Martin. Conoscete Terrace Martin, sassofonista? Non lo conoscete, vabbè. Allora, che facciamo, Sebi? Iniziate voi con la ritmica. Non lo faccio velocissimo, dai. È perché è bebop proprio, dai. Facciamo una cosa medium. Hey, Rookie! Allora, andiamo con Terrace Martin, Riccardo Bomarzi. Ascoltiamo Terrace Martin Presents the Polyseats Sounds of Friendship. Il brano si intitola Believe, qui al Soundcheck Radio 24. È andata bene, ragazzi, mi è piaciuta questa versione di Hey Rookie qui al Groovemaster. Soundcheck, il suono della musica. The Great City, brano scritto a quattro mani insieme al mio amico Sebi Burgio, brano che abbiamo utilizzato anche come sigla del programma Variazioni su tema, che è andato in onda la passata stagione su Rai 5, che è uno dei canali che rappresenta la qualità nel nostro paese per l'arte e la cultura e la musica, naturalmente. Sebi Burgio, siciliano, pianista, oggi attivissimo nel nostro paese, non solo nel versante jazz, ma proprio perché la musica ti piace tutta, no? Tutta la musica è bella, soprattutto quando è suonata bene, quindi in realtà non ha confini. Senti, anche a te voglio chiedere, insomma, una provocazione, così come ho fatto con Alfonso e Joseph. Joseph voleva fare il monaco tibetano, Alfonso ha tentato una carriera da commercialista, no? Che volevi fare tu, Alfonso? L'avvocato. E tu invece ti sei dedicato solo ed esclusivamente alla musica, o era pronto anche per te un piano B? Io avevo un piano B ed era anche il mio, una carriera da commercialista. Da commercialista. Ho fatto un anno di università, tra l'altro io quando decido di fare una cosa cerco di farla nel migliore dei modi. In realtà avevo dato tutte le materie puntuale, e poi però una notte... Anch'io hai avuto una visione, hai avuto una chiamata? Ho avuto una chiamata. E chi ti ha chiamato? Mi ha chiamato non so chi e mi ha detto lascia perdere. Lascia perdere. E concentrati. Ma tu che contemporaneamente al percorso universitario eri iscritto anche al conservatorio o hai iniziato dopo? Non ero iscritto al conservatorio, però stavo studiando per il, ormai non c'è più, l'ottavo anno, il famoso ottavo anno di pianoforte, che è uno scoglio insormontabile. Perché c'è un carico di lavoro notevole. Veramente notevole di studi, e quindi lì ho avuto insomma la chiamata. Ma tu vieni da una famiglia di musicisti o semplicemente di appassionati di musica o guarda o in realtà i miei sì seguono la musica ma non suonano. Fanno tutt'altro. Credo di aver preso la passione dal mio nonno paterno, perché è stato veramente un appassionato alla musica e al canto, a bel canto, quindi alle arie classiche, però per ragioni di vita e per ragioni economiche ha dovuto fare altro nella vita, però una volta andato in pensione si è scatenato e quindi il nipotino che lo seguiva nelle sue avventure magari ha preso... Senti Sebi, tu hai studiato tanto e continui a studiare, quanto è importante, adesso invece fai la professione, cioè non hai più tanto tempo per studiare perché il tempo lo trascorri senz'altro più in movimento, perché lo abbiamo detto più volte, il lavoro del musicista non è suonare e stare sul palcoscenico, ma sono le 12 ore di autobus, come diceva Count Basie, che deve fare, che diventano poi il lavoro. Purtroppo sì. Tu hai un'attività oramai frenetica, perché per esempio io non solo lavoriamo insieme, però fai anche tanti concerti con altri meravigliosi artisti, da Fabrizio Bosso, Max Ionata, Barbara Casini, Chiara Civello, insomma ce ne sono tanti di artisti, Ainè con Arnaldo Santoro, ti muovi fra il jazz e il pop di grande qualità, l'hip hop, quindi quest'estate eri praticamente sempre in treno o in aereo, quindi quando riesci a studiare e quanto è importante per te trovare il tempo per studiare? Beh, sicuramente non rimpiango quello che ho ottenuto e quello che ho, per carità. Però sicuramente avere il tempo a disposizione per studiare, per elaborare quelle informazioni che alla fine uno capta anche suonando in giro con tante persone, avendo la fortuna di suonare in tanti progetti, è importante. Quindi sicuramente l'inverno, che è una stagione un po' più povera a livello concertistico, deve essere sfruttato in quest'ottica. Quindi ricavarsi il tempo di studiare, di produrre, di comporre, di approfondire i propri limiti, di cercare di andare avanti è molto importante. Quindi comunque mi sembra di capire che anche quando lavori studi, nel senso vai a lavorare, siamo come delle spugne, no? Sì, è una ricerca. Cerchiamo continua. Di prendere tutto il meglio in giro da chi ha più esperienza di noi, ma anche dai più giovani. Assolutamente. Va bene, senti Sebi, io sai che cosa ti vorrei chiedere, se ti va, se ci suoni qualcosa, un solo piano, che dite ragazzi, sì, no? Sì. Ma mi fate l'applauso? Sì, certo, te lo facciamo. Perfetto. Prima e dopo, se te lo meriti. Prima di incoraggiamento, prima, te lo possiamo di fare. E hai, sai già che cosa ci vuoi suonare? Ma vediamo. Ti lasci andare? Sì. E io ti lascio andare. Ti faccio anche una bella presentazione con applauso. Ti puoi muovere, posso? Ti puoi spostare direttamente al pianoforte. Madame et Messieurs, ladies and gentlemen, dal vivo al soundcheck di Radio 24, questa sera il piacere di presentarvi un solo piano di uno dei migliori interpreti della nuova generazione, il piacere di farvi ascoltare L'arte e il talento al pianoforte di Sebi Burgio. Ti è piaciuta? Benissimo. Applauso. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Sempre in contatto con il Groovemaster Studio per il finale, il finalone di questo appuntamento, primo appuntamento di questa quinta stagione del Soundcheck di Radio 24. Io intanto voglio ringraziare tutti voi per la partecipazione, voglio ringraziare intanto Riccardo Bomarzi, perché è quasi una settimana che lavora nello studio. Grazie Riccardo. Grazie a te Gigi, è un piacere lavorare qui in radio. Lo so, oramai io ti ho preparato la branda, perché fra le produzioni discografiche adesso c'è la radio e poi tutte le altre cose che facciamo. Esatto. Ti devi trasferire, no? Dobbiamo vivere insieme a questo punto. Ecco, questa la vedo dura, però ti ringrazio e tanto noi ci rivediamo domani, perché domani abbiamo anche la puntata per la domenica. Ringrazio Sebi Burgio, è stato bellissimo questo brano che hai, che è una tua composizione, era Sebi? No? Sì. Come si chiamava? Etnia. Grazie a fratello Joseph Bassi, che sta continuando a smessaggiarsi con la moglie, anche lei una eccellente contrabbassista di Taiwan. Si trova a Taiwan adesso? Ah, sta a Roma, va bene, tanto la vedrai fra pochissimo. Grazie a Alfonso De Ida e grazie anche a Dario Panza. Dario Panza è diventato negli ultimi anni uno dei miei batteristi preferiti, lo sapevi? Grazie, no. Ma anche perché suoni, vuoi sapere una cosa forte? Uh-huh. Degli amici, dei giovani musicisti mi hanno detto: ma Dario Panza è fantastico, da quanto tempo suonate insieme? Poi mi piace molto Dario Panza perché ha un suono di rullante strepitoso. Allora vorrei che tu chiarissi il punto, per favore. Non ti Dov'è il trucco? Dove sta il trucco? Ah, il trucco, diciamo che è da un bel po' che utilizziamo uno strumento molto particolare. No, tu devi dire che utilizziamo il tuo rullo, il rullante. Ci stavi arrivando, che è il tuo, ma che l'abbiamo comprato insieme. Esatto. Abbiamo fatto un acquisto formidabile, no? Sì. Non c'è bisogno, possiamo anche dire la marca. Abbiamo comprato due rullanti Ludwig, uno pazzeschi, più bello dell'altro, insieme. Perché siamo appassionati dello strumento. Tu sei un eccellente, certo, batterista. Io mi piacerebbe essere un eccellente batterista, però senz'altro sono un batterista forte dentro, poi, certo, sullo strumento un po' meno, no? Ma molto spesso è quello che conta, nel senso che poi le idee sono quelle che poi vanno nelle mani, no? Infatti io cerco di rifare anche quando faccio beatbox, che lo faccio da quando ero bambino, cerco di farlo in maniera originale, cioè non faccio il beatbox da rappere, insomma, quello tipico dell'hip hop. Mi lascio andare come se fossi un batterista, cerco di ragionare da batterista, certo. Te ne eri accorto? Sempre. Ma tu lo fai? Allora, non ti è mai capitato di fare beatbox? Forse giocando a volte sì, però... giocando, sì, quello certo che è un gioco, mica io lo faccio seriamente, lo faccio per divertirmi, no? Sì, diciamo che ho sempre un po' più utilizzato le mani rispetto alla voce. E le bacchette. E le bacchette, sì. Vabbè, però insomma, quando stai in vacanza, che so, con la tua fidanzata e sei in astinenza da strumento, non ti viene da fare... Sì, a volte capita, a volte capita. Fammi sentire. Così proprio su due piedi, eh? No, se vuoi fare, no, e quello è il bello, no? Perché voi mi umiliate quando io mi metto dietro la batteria, fate cose complicate per non farmi suonare. Adesso io invece voglio vedere vocalmente come te la cavi. Ecco. Joseph, non ridere, vieni pure tu qui. Fammi sentire che sai fare vocalmente, perché è bello, questi tutti parlano, perché i cantanti poi voglio vedere che sanno fare. Facciamo un duetto. Allora facciamo un duetto. Parti tu. Vabbè, ma qua siamo a livello da principiante proprio, eh? Scusa, un po' di jungle, è già uno un po' di jungle, uno sforzo notevole. No, ma non ti concentrare sul suono, concentrati invece sul ritmo, dai. Dai. E la lingua non si muove come le mani. Io sai che non ho capito proprio che stavi facendo. Che cos'era, una cosa pari, una cosa che roba è? Quattro quarti. È un quattro quarti, quindi con gli accenti spostati. Vabbè, allora stacchiamo il tempo, okay. Sei pronto? E allora grazie a Sebi Burgio al pianoforte, Dario Panza alla batteria, fratello Joseph Bassi alle contrabass, Alfonso De Ida al contralto, che resterà con me anche per la puntata di domani. Grazie all'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, e allora appuntamento a domani alle 19:15 sempre qui dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24. Vi lascio con una versione esplosiva di Happy di Pharrell Williams per The Bottom 40. A tutti voi buona serata da Gigi Telesforo.